behind her and smile. Every problem brings a stranger inside. Hopelessly forcing on a modern disguise. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Lost in my world, this big-eyed girl sees her face is a pearl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl. Christine sees her face is unfurled. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS l'Onda Veronese. Frequenze le facciamo dire alla nostra ospite Sara delle Diva Scarlet. Sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente su provincia. Poi? Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming dal sito www.radiorcs.it. Dal punk passiamo all'evoluzione successiva, ovvero il Dark New Wave. Il primo brano era The Siouxsie and Banshees dal titolo Christine, dal disco Kaleidoscope del 1980, una band leggendaria e che molti rimpiangono nonostante la recente uscita disco solista di Siouxsie. Che ne dici, Sara? Grandissima voce che mi ricorda altri miei miti come PJ Harvey e Sinéad O'Connor. Grandissimo groove, grandissima band, veramente, veramente bravi. Tra le recenti soddisfazioni delle Diva Scarlet è giusto citare il concerto del 1° maggio a Roma. Una parola su questa incredibile esperienza che di sicuro non vi avrà fatto dormire la notte. Allora, grandissima adrenalina, adrenalina a mille. C'era questo palco girevole bellissimo su cui ci siamo preparate appena prima la nostra esibizione. Pubblico. E tantissimo pubblico. Io non ho mai visto così tanto pubblico. Io ho detto che quando quel pubblico sarà per noi io sarò veramente contenta. Però veramente, veramente bello, una bella esperienza, anche perché ci ha dato l'opportunità di conoscere tanti altri artisti grandi che ci hanno comunque molto appoggiato. Tipo abbiamo conosciuto Marina Reyer in giuria, poi vabbè, adesso sto citando i minori, Caparezza, sempre Marta sui tubi, Paolo Benvenu, tantissima Subsonica, tantissima gente che ci ha visto, ha detto ragazzi complimenti, spaccate veramente tutto. E allora, nel 1984 esce Ocean Rain, il disco più importante degli Echo and the Bunnymen di Ian McCulloch, che poi non sapranno più ripetersi nei dischi successivi. Con loro ritorniamo a quel lavoro con il brano The Killing Moon. We'll be right back. starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Stavo pensando in questi giorni, è strano come gli Echo and the Bunnymen siano finiti un po' nel dimenticatoio, mentre band affini come Cure continuino almeno un'attività live intensa. Un tuo parere comunque sul brano? Mi ha fatto immergere un'atmosfera alla Quentin Tarantino. Mi vedevo questo brano molto pulp, molto scanzonato e sotto delle scene di violenza pesissima. Mi è piaciuto tantissimo, un singolone devo dire, cioè sonorità certamente molto belle, linea melodica stupenda, veramente gran pezzo. E tra l'altro, se non erro, era anche nel film Donnie Darko. Sì, veramente bello, rispolverato per l'occasione. Esatto. Durante i vostri concerti avete condiviso il palco con nomi illustri della scena indipendente. Com'è stato il vostro rapporto con loro e se vi ha aiutato nella vostra crescita come artiste? È stato molto armonico, devo dire, suonando di spalla gli After Hours, Marlene Kunz, Cristina Donà, abbiamo sempre avuto un confronto alla pari, molto bello, e diciamo che quando con tutte le tue forze vai in una direzione e senti che certi pilastri ti danno comunque grandi consigli, dici caspita, sto andando nella direzione giusta, quindi è stata sempre una bella cosa, mai competizione, mai invidia, sono molto contenta sotto questo punto di vista. Bene. Chiudiamo allora la seconda parte con i Joy Division. La band di Ian Curtis pubblicò proprio 30 anni fa, nel 1979, il disco di debutto A Non Pleasures, che riscosse il grande successo influenzando tutta la scena inglese dell'epoca. Uno dei brani più noti era ora Disorder. Tra poco ascolteremo i brani del disco Non più silenzio delle Diva Scarlet. Shuffle away.